L'amministrazione comunale, man mano che amministra, evolve istituendo moduli, argomenti preconfezionati che riducono sul medesimo livello espressivo, che so, Alessandro Manzoni, l'analfabeta di sola andata e quello di ritorno. Non so quanto ciò può contribuire alla democrazia, mentre chiunque concorderebbe sulla sua economicità. Se per ogni domanda o per qualsiasi comunicazione d'altra natura c'è un modulo bello e pronto, di tempo e di congetture se ne risparmiano. Nome, cognome, data di nascita, luogo, residenza, eccetera, sono tutte istruzioni implicite lì già in ordine e basta compilare obbedientemente. Fa niente se l'altro giorno, quando ho chiesto il rinnovo della carta d'identità, quella stessa definizione di libero professionista, che va benissimo quando pago le tasse, vabbè, in quel caso quando rinnovo la carta d'identità non mi viene accettata. Vabbè, sono piccoli incidenti di percorso, lembi di nessuno nella sterminata terra della burocrazia, che non inficiano poi la funzionalità dell'intero sistema. Sul modulo c'è proprio tutto quello che ci deve essere, a volte c'è fin qualcosa di troppo. Non so se da buoni milanesi laboriosi avete mai fatto una domanda di concessione posteggio in mercati comunali. Se l'aveste fatta, sapreste che questa domanda è rivolta direttamente al signor sindaco e che, dopo aver dato lo spazio a tutte le informazioni occorrenti affinché ci possa essere una minima speranza che essa domanda venga accolta, questa domanda termina con una formula di saluto, per l'esattezza con la formula moderatamente ingraziatoria del porgo doverosi ossequi. Non tutti i moduli della pubblica amministrazione sono così attenti alla cortesia, ma questo sì. E il fatto che l'ossequio sia considerato doveroso, obbligando così il cittadino servo della gleba alla sottomissione rispetto al sindaco feudatario, può anche venir considerato un eccesso di zelo caratteristico degli autentici manutengoli del potere. Il problema è un altro. Mi è capitato fra le mani il modulo inverso. Con inverso voglio dire quello relativo alla domanda di rinuncia posteggio in mercati comunali, il quale, al termine, invece di porgere i doverosi ossequi, porge i distinti saluti. Più o meno è come passare dal caviale alle lenticchie, almeno per coloro che non siano come me, che vado matto per le lenticchie e rimango indifferente per il caviale. Fra i doverosi ossequi e i distinti saluti deve essere accaduto qualcosa. Qualcosa che ha fatto scivolare di parecchio nella scala dei valori colui al quale l'omaggio verbale veniva tributato. A meno che la natura della differenza non sia tutta spiegabile nella natura del documento stesso. La prima è una domanda e come tale può venire accolta o rifiutata, mentre la seconda è la rinuncia a quella stessa domanda accolta in precedenza. Quando si bussa è implicita l'umiltà di chi bussa, mentre quando ci se ne va si può anche sbattere la porta. Every time I call my baby, I'm trying to get a date. Boss says, no die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go right next Sunday. Well, I didn't go to work, all the boss I was sick. Now you can't use the car. call, cause you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.